24 settembre 2003, nuovo Pendo Delirio, mi scuso per la lunga assenza, oppure a seconda del giudizio mi scuso del fatto di essere tornato. E la Focus sempre più becera, infrequentabile, inqualificabile, scrostata e tutto sommato anche un po' umidiccia, è tornata a rappresentare la mia abitazione principale. E con l'aria condizionata continua il suo compito con grande diligenza, svolge questo compito di allargamento del buco dell'ozono. Ed è una strana stagione questa, in cui si va in giro vestiti un po' astrati, si passa da temperature tropicali a questi 15-14 gradi di certi edifici che evidentemente per potersi fregiare del titolo di business center devono appunto presentare temperature polari, che si affrontano con questi strani soprabiti che sono abbastanza inspiegabili, ripeto, nel settembre romano, sotto i quali c'è appunto puntualmente la giacca e la cravatta che ha anche lei una doppia funzione: da una parte impedire che il sangue affluisca al cervello, che quindi evitare il rischio di prendere decisioni giuste, e dall'altra anche la cravatta ha un ruolo fondamentale, quello di farsi dare del lei. Cioè, nei giorni in cui sono in ufficio in cravatta noto che le stesse persone che il giorno prima davano il tu passano a lei, e questo è affascinante, se ci si pensa è veramente sorprendente. Così come la borsa tracolla serve per essere qualificati come dei tecnici, la stessa borsa tenuta invece in mano evoca evidentemente il manager rampante. Questo è abbastanza, non lo so, sociologicamente meriterebbe un approfondimento. Oggi è anche il day after dell'intervento di Berlusconi all'Assemblea Generale dell'ONU. Fa un certo effetto vedere questo signore che si era prodotto in sproloqui di vario genere per tutta l'estate improvvisamente dire qualcosa di condivisibile e rispettabile. Poi sappiamo benissimo che da domani ricomincerà a dare sfogo ai suoi istinti più bassi. E sempre per rimanere in tema di becerume, il documentario della Cici Lupetti SS148, realizzato insieme ad alcuni colleghi di blog dei quali non faccio il nome, però insomma sono abbastanza noti, è in concorso in questo festival, Alternative Film Festival di Picciano, provincia di Pescara, e proprio in questi giorni si sta decidendo se verrà selezionato o meno. Sembra molto improbabile perché gli altri film sono tutti realizzati da registi professionisti, invece questo è stato realizzato in 3 giorni con 2 macchine fotografiche digitali che di straforo riprendono anche le immagini in movimento. Comunque, nel caso improbabile in cui venga selezionato, probabilmente ci sarà una proiezione, bisognerà presenziare, insomma, in qualche modo ci organizzeremo.